Certamente un'emozione molto forte, anche un grande senso di responsabilità, un dovere verso lo Stato e la Nazione. Ma certamente avremo già nei prossimi giorni con i ministri della Difesa, il ministro degli Esteri e il ministro Maroni già una prima riunione sul discorso della sicurezza. Certamente c'è tutto il discorso del dossier dei trasporti. Credo che faremo un grande lavoro di squadra. Ecco, questo è l'argomento che desidero mettere in rilievo. C'è un grande gioco di squadra e sono convinto che faremo bene. Auguri. Auguri, no. Auguri, una grande serenità, una voglia di far bene, una grande determinazione nel lavorare, e già si lavora sin da subito, come abbiamo detto. Ha ragione, il sindaco Alemanno sta facendo molto bene, è partito con il piede giusto, il desiderio di sicurezza dei cittadini romani era molto forte, il buonismo veltroniano sta dimostrando tutto il suo fallimento totale. E siamo convinti che Gianni Alemanno sarà un grande sindaco, è partito molto bene, sta giustamente indirizzando la sua azione nel bisogno dei cittadini.